Allora, benvenute, benvenuti a questo festival Orizzonti Weird. E adesso ci sarà la presentazione del libro di Laura Santini, Il gioco delle carte, Travestimento e colore sociali tra 8 e 12 anni. Ad intervenire ci sarà Cristiana Matucci. Ciao, io brevissimamente introduco il libro di Laura perché è sicuramente molto più interessante parlare con lei. Io vi leggerò poi delle parti. E diciamo che insomma sono anni che conosco Laura e per quasi altrettanto anni l'ho sempre sentita parlare di casi di travestimento, comunque di la sua passione per donne e uomini che si travestono nella vita, non sempre solo a scopo sessuale, diciamo così, o per casi di omosessualità, è sempre stata una cosa che l'ha accompagnata almeno da quando io la conosco, da tantissimi anni. E devo dire che alla fine, insomma, dopo tutti questi anni di passione, è riuscita a far uscire questo libro che, al di là insomma, dell'interesse proprio storico di aver scovato, di aver trovato dei casi che all'inizio, insomma, la ricordo, per lungo tempo cercavo in questi archivi, piuttosto che nei manicomi, nei carceri, cioè non riusciva. Devo trovare questo caso. E alla fine, insomma, invece devo dire che ne ha trovati diversi, perché ovviamente essendo un libro che ha delle fondamenta storiche, deve averci ovviamente degli scontri. Devo dire che al di là, insomma, della ricerca storica, ha saputo anche raccontarci uno spaccato sociale molto importante, secondo me, appunto, dalla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, in una maniera anche stilisticamente e letteralmente, secondo me, molto travolgente. Un po' come era travolgente secondo me la vita di quel periodo, in cui forse più di adesso era più facile travestirsi, anche se è proprio su questi inizi di casi che la polizia comincia a costruire, comunque le questure cominciano a costruire i casi di travestitismo, no? Per cui diciamo che insomma ho trovato il libro, mi piacerebbe che Laura iniziasse a raccontarvi proprio dove è nata questa passione e in particolar modo cioè, come è riuscita a rendere così bene poi, perché si vede proprio che ti sei immersa in uno spaccato sociale e storico, non solo storico ma anche sociale di questo periodo, per cui c'è una relazione, un racconto degli usi e costumi tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento molto bello, secondo me, che è scritto anche molto bene. Che non è un libro proprio storico, diventa quasi un romanzo. No, diciamo, forse il fatto che io mi sia immersa così in quegli anni, tanto poi da riuscire a ricostruire un po', ecco, la vita quotidiana di soprattutto dei ceti popolari italiani tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, forse anche dovuto al fatto che ho avuto tante difficoltà all'inizio a trovare le cosiddette fonti, per cui ho dovuto cercare ovunque, e alla fine della raccolta del materiale penso di aver scandagliato più o meno quasi ogni segmento della società del periodo, per cui avevo fatto uno spoglio dei quotidiani cosiddetti popolari di fine Ottocento, quotidiani di Roma e di Napoli, avevo visto degli archivi manicomiali, per cui ero andata ad Aversa dove c'è il manicomio criminale, avevo fatto una ricerca a Roma al manicomio Sant'Andrea della Pietà, che invece è un manicomio civile, avevo guardato il fondo del tribunale penale di Roma e di Napoli, mi ero guardata tutta la letteratura scientifica del periodo, per cui ecco, diciamo che alla fine avevo un quadro diciamo abbastanza completo, ed effettivamente diciamo questo è un po' è diventata un po' la struttura del libro, ma in realtà è anche rispecchia quella che è la struttura del, se lo vogliamo chiamare, del fenomeno del travestitismo a fine Ottocento, perché io ecco, rifacendomi un po' alla letteratura che esiste già in altri paesi che si è occupata di travestitismo, avevo deciso di iniziare questa ricerca perché mi appassionava, mi intrigava, io stessa da quando sono nata mi sono sentita ingabbiata un po' in questi ruoli di genere, mascolinità, femminilità, per cui diciamo, l'interesse è nato in maniera un po' casuale, perché io giocavo a pallone, mi chiamavano la masculona, però io non mi sentivo maschio, quindi era tutto un po' così. Poi ho incontrato degli studi tedeschi che si erano occupati di travestitismo e francesi, avevo visto che per esempio loro erano partiti dalle fonti manicomiali o da quelle processuali, per cui i travestiti e le travestite erano state o internate in manicomio o processate perché si erano mascherate, si erano travestite, e quindi io avevo avuto l'idea un po' ingenua di rifare la stessa ricerca in Italia, dire vabbè, mi guardo un manicomio, mi guardo un fondo del tribunale penale, sicuramente trovo dei casi e riesco a fare la mia ricerca. E invece appunto non è stato così, nel senso che in Italia il fenomeno ha avuto una ramificazione e anche un modo in cui è stato gestito, se vogliamo represso dalle autorità, molto più sfaccettato di quanto è successo in altri paesi. Per cui sì, abbiamo dei casi in manicomio, abbiamo dei casi che sono passati dai tribunali e quindi poi dalle carceri, però abbiamo anche una moltitudine di casi che non hanno avuto un esito così negativo, se vogliamo, ma che invece sono state delle messe in scena, se mi permettete il termine, che sono andate a buon fine, che sono durate decenni e ventenni, cioè diciamo vent'anni, trent'anni, e poi se ne è avuta notizia sui giornali solo perché al momento della morte del travestito o della travestita, nel momento in cui andava spogliata e rivestita per il funerale, si scopriva che quella persona creduta uomo per 30 anni, console come uno dei casi che ricostruisco, fosse in verità una donna. Per cui diciamo, questa cosa di viaggiare tra diversi segmenti di quella società italiana è stata un po' imposta proprio da come il fenomeno si è strutturato in Italia. Poi diciamo pure che a me interessava guardare al travestitismo nei ceti popolari, e questo ha fatto una grande differenza, perché magari noi abbiamo delle biografie di donne illustri o uomini illustri che si sono travestiti nel passato, però appunto sono appartenenti alle classi alte, hanno lasciato documentazioni, come dire, memorie o fonti a stampa che però riguardavano delle biografie un po' eccezionali. A me non interessava molto questo, volevo cercare di capire se e come anche in Italia il travestitismo è stato una risorsa, è stata una scelta di vita o anche un gioco, e quanto fosse diffuso, quanto fosse poi osteggiato dalle autorità. E quindi per fare questo ho deciso di confrontarmi con i ceti popolari più che cercare comunque delle biografie illustre. Alla fine, appunto, come dice Cristina, è venuto fuori un bel corpus di storie, forse anche di storie di vita, di racconti che hanno restituito forte la sensazione che, ecco, di travestitismo a fine dell'Ottocento si può parlare, cioè era una delle opzioni praticabili e percorse poi da un certo numero di persone, anche molto divertente, molto appassionante, appunto, ripeto, non per forza con esiti tragici o che sono poi quelli che ci restituiscono un certo tipo di fonti. A cercare in altre si ha anche un altro sguardo, un'altra prospettiva. Me la confesso. Si presenta con disinvoltura, vestita da uomo e tutt'altro che impacciata. Il suo viso, di un perfetto ovale, coronato di capelli folti, neri e ondulati, ha perduto alquanto della sua naturale finezza femminile, per acquistare una simpatica espressione da spugnizzo napoletano. Il portamento, la voce un po' maschia, potrebbero trarre in inganno sul suo sesso un osservatore poco minuzioso. Ma la curvatura e la modellatura delle anche, l'assenza di sporgenze ossee e di prominenza laringea, nonché l'accenno del seno, tradiscono abbastanza la donna, che all'esterno sembra completamente rispettata del tipo. Nulla di anormale e tantomeno di teratologico appare nella sua conformazione somatica. Ma la romania balza non appena si tenta l'animo della soccorsa, della C. Per quanto siano scarse sul suo viso la mimica e le reazioni vasomotorie, alla domanda se abbia mai avuto relazione carnale con uomini, assume un'espressione energica, quasi spavalda, e risponde che nessuno sarebbe capace di toccarla. Così mostra ripugnanza per la funzione sessuale, mentre si diletta a fermare spesso per le vie delle sartine in area di conquista. Quando parla di sé, non una volta, le sfugge il genere femminile. Presentata come giovanotto o creduta tale, sorride di compiacimento, mentre il suo viso si vela di malinconia se le viene detto che sarà costretta a vestire da donna. Ciò premesso, è da ritenersi effettivamente alquanto atrofica la sua sensibilità sessuale e più tendente al proprio sesso che al sesso maschile. Questa circostanza spiegherebbe il fatto come, nonostante i pericoli e le insidie della sua vita avventurosa, sia sfuggita, per quanto essa stessa assicura e le sorelle confermano, alla proterva lussuria dei numerosi cacciatori di minorenni comuni nelle grandi città. Se mi fosse lecito di azzardare un giudizio, direi come conclusione che non ci troviamo di fronte ad un essere paradossale che in corpo femminile alberga un animo maschile. Il suo temperamento eminentemente isterico, il periodo critico della pubertà che attraversa e certamente certe attitudini congenite potrebbero spiegare il fenomeno. Lui è Panetta che descrive questa... Panetta, lei in realtà è soccorsa a Porto. È una delle storie con cui, anzi è la storia con cui io apro il libro, è una di quelle a cui mi sono più affezionata. Leo è una ragazza di 14 o 15 anni che nel 1911 e poi successivamente viene più volte arrestata a Napoli perché trovata in abiti maschili, e non solo trovata in abiti maschili ma intenta a compiere attività e a comportarsi come un ragazzaccio, come dice questo Panetta, che poi vi dirò chi è. A lei piaceva, per esempio, saettare in bicicletta per via Roma, che è una delle vie centrali di Napoli, andare al cinematografo la sera, frequentare i caffè, fare l'autista di piazza e fare il barbiere. E questa ragazza fa tutte queste cose travestita da uomo, viene fermata un'infinità di volte e va a finire sui giornali altrettante volte, per cui su di lei appunto è stato possibile trovare una quantità di materiale perché desta scandalo non poco in quegli anni. E però lei appunto ha questa ostinazione che la porta a reiterare ogni volta questo travestimento, e soprattutto la cosa che a me mi ha colpito, gode dell'appoggio di alcune figure. E a me la sua storia mi ha interessato molto perché lei, diciamo, non si capisce da questo materiale ma da altri su cui ho lavorato, viene appoggiata dal fratello. Lei per esempio vive con un fratello travestita da uomo che le permette di andare in giro vestita da uomo e la ospita perché non hanno i genitori, vabbè. Oppure c'è il garzone, diciamo, c'è il proprietario della bottega da barbiere che la fa lavorare come barbiere travestita da uomo, poi lei fa anche il figurante di teatro, ovviamente di parti maschili, per cui ha tutto un sistema di relazioni che in qualche modo la sostengono, e che è una cosa che appunto io ho tra virgolette scoperto con lei, ma poi ho ritrovato in moltissimi altri casi di travestitismo che ovviamente per durare 10, 20, 30 anni necessariamente hanno avuto pure il bisogno, come dire, del sostegno di qualcuno, no? E, per cui la sua storia mi è piaciuta e ho voluto iniziare con lei perché da una parte c'è tutto il gioco, tutta la determinazione di questa ragazzina che ha 14 anni, dall'altra parte su di lei si condensano tutta una serie di temi che poi io sviluppo nel libro, che sono questo che vi dicevo della rete, delle relazioni, quello dello scandalo e quindi dell'interesse dei media, della stampa per questo tipo di vicende. E c'è soprattutto questo personaggio che compare, che è Attilio Panetta, che è colui che fa questo report, che è un vice commissario di polizia scientifica. E questa è una circostanza, diciamo, non proprio secondaria, perché attraverso di lui, diciamo, io ho esemplificato il modo in cui la polizia scientifica, che nasce in quegli anni, nel suo interesse generale per l'identificazione, per l'identità, si occupa in maniera non secondaria, non accessoria, anche dell'identità di genere, dell'identità sessuale. Quindi sono proprio i funzionari di polizia scientifica, quelli che si formano alla scuola di polizia scientifica, all'antropologia criminale, che poi producono tutta un'altra serie di materiali, di fonti, di documenti, di studi sui travestiti e le travestite, ovviamente su quelli che oggi chiamiamo gli omosessuali, le lesbiche, e diciamo tutti i soggetti chiamiamoli queer o eccentrici, ed è diciamo un soggetto che entra in gioco che secondo me ha rivestito un'importanza primaria poi nel modo in cui è stato gestito il travestitismo tra 8 e 900, perché attraverso di loro passa la criminalizzazione del fenomeno. E non so se avete notato, però questa piccola nota che fa Panetta ci sono tutta una serie di precipitati della cultura positivista del periodo, per cui lei è un'isterica, lei è insensibile sessualmente, tranne poi affermare che preferisce le sartine, per cui la sua insensibilità sarebbe un'insensibilità eterosessuale poi fondamentalmente, però lui la già declina tout court dicendo no, lei è insensibile però preferisce le sartine, cosa accessoria. E c'è tutto questa retorica del fatto che i travestiti o le lesbiche o gli omosessuali sono fondamentalmente persone nate con un corpo sbagliato, cioè donne che diciamo che hanno una psiche maschile ma che in realtà sono intrappolate in un corpo di donna, e tutta questa retorica è una retorica poi che si è trascinata fino a oggi, cioè comunque ha avuto conseguenze importanti pure nella nostra cultura, perché in qualche modo elimina il campo della scelta da queste biografie, da queste storie, perché c'è una natura che impone certi comportamenti, certe anormalità, e non c'è una libera scelta delle persone di in qualche modo inventarsi il proprio destino o la propria storia. Ma non ci si traveste solo a scopo sessuale, diciamo. Una donna, lo abbiamo visto, convinta che il marito la tradisca, si decide a scoprire da sola la verità. Per fare la posta all'infedele consorte e per meglio riuscire nel suo pedinamento, si veste da uomo. Seguiamo ora con maggiore dettaglio le disavventure di Angiolina Santioni. Uscita in missione accompagnata da una sua amica, gironzola per le vie della città, fino a quando, presso via Giglio, alcuni passanti riconoscono, sotto quelle forme troppo arrotondate, una donna che ha lasciato gli abiti del suo sesso. E allora fu chi le rivolse la parola in modo abbastanza ardito, tanto che la Santioni replicò vivacemente. Alla curiosa lite cominciò a fermarsi gente, la folla crebbe, gli indiscreti aumentarono, i curiosi fecero ressa. Fatto è che le due donne dovettero fuggire e, per salvarsi dalla indiscrezione poco cavalleresca che le circondava, rifugiarsi in un portone che si chiusero dietro. Ma la folla, prosegue il racconto, non desiste, ancor più numerosa, si raccoglie davanti alla casa, fino a che le due donne, impossibilitate ad uscire, trovano rifugio presso un'inquilina del terzo piano, che fornì alla povera Angiolina degli abiti mulibri che la togliessero dall'imbarazzo in cui l'avevano messe i pantaloni. Neanche questo però, raccontano i due quotidiani, basta placare l'animosità dei curiosi, tanto che alla fine intervengono le guardie di pubblica sicurezza che caricano le due donne su una carrozza e le riportano a casa. Anche in questo caso è difficile distinguere tra come i fatti si siano effettivamente svolti e la misura in cui essi siano stati gonfiati dai cronisti per galvanizzare il pubblico. Vedremo ad ogni modo come lo stesso schema, una persona di cui non si riesce a decifrare immediatamente il sesso, accerchiata da una folla scomposta, ricomparirà molte altre volte sui quotidiani, e già solo per questo un elemento cui prestare attenzione. Che i quotidiani vogliano suggestionare i lettori e lettrici, disponendogli alla vigilanza verso le figure dal sesso incerto, fornendogli esempi a cui ispirarsi, oppure che essi si siano limitati a descrivere, in toni solo un po' romanzati, quanto realmente accaduto, la trama dei fatti segue un andamento che merita qualche considerazione. Prima fra tutte quella che riguarda la conclusione della vicenda, fortemente evocativa. Il ritorno ai vestiti femminili toglie la malcapitata dal pericolo, così che finalmente può tornare a casa, luogo emblema del modello tradizionale di femminilità, tutto costruito intorno alla sfera domestica. Sì, diciamo, questo è un esempio, quello che ha fatto Cristina, appunto, del fatto che in quegli anni c'è un interesse per i travestimenti e per il travestitismo che appunto esula pure un po', va un po' anche oltre dal fatto se questi travestimenti siano duraturi nel tempo, siano motivati appunto da scelte come quelle del desiderio, dell'amore o della soggettività, magari invece sono del tutto casuali. E anche qui sono state un po' le fonti a imporre il ragionamento, nel senso che io guardando i giornali di fine 800 e dei primi decenni del 900, ho trovato veramente tantissimi articoli di scene di questo tipo, cioè di donne che si travestono in maniera del tutto occasionale, molto spesso si dice per seguire il marito e scoprire se avesse o meno l'amante, o però stava anche con l'amica. Però stava con l'amica, infatti poi pure lì c'è tutto uno spunto non detto che è. Sì. Però la cosa, come dire, importante è che questi travestimenti, quando vengono scoperti, sono fatti oggetto di una ostilità sociale, o quantomeno di una vigilanza sociale altissima, per cui si creano questi assembramenti proprio intorno al travestito o alla travestita, perché lo stesso discorso vale per gli uomini in abiti femminili, finché appunto non è costretta a intervenire la pubblica sicurezza. E mettendo insieme tutti questi casi, ovviamente io mi sono chiesta perché poi fatti anche, se vogliamo, di folklore, così episodici, suscitassero tutta questa partecipazione popolare. E diciamo, questo è un po' l'argomento che sta al centro del mio libro, perché poi a me sembra che in questi decenni, proprio tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, il travestito e la travestita svolgano nella nostra società e nella nostra cultura una funzione fondamentale, che è quella di rappresentare proprio le paure, cioè più che altro di rappresentare la crisi dei modelli di genere tradizionale, e quindi di suscitare una quantità di paure, di ansie sociali che in qualche modo sono lo specchio di quei decenni di forte trasformazione e ridefinizione di ciò che è maschile e ciò che è femminile. E io sono, diciamo, arrivata a questa, non dico conclusione, ma questa lettura pure partendo dalla constatazione che i travestimenti hanno una storia millenaria, però in Italia non ce n'è traccia fino alla fine dell'Ottocento, o meglio, ce n'è traccia, ma di tutte, come dire, episodiche, per cui abbiamo sì magari una memoria di fine Seicento, un'altra fonte archivistica del Settecento, però abbiamo pochissima produzione su questa figura, che invece per esempio in Inghilterra è molto celebre già dal 600, la donna guerriero, la donna soldato, cioè in altri paesi sono celebrate veramente da età moderna in poi. In Italia c'è un silenzio assoluto sulla figura della travestita o del travestito fino alla fine dell'Ottocento, quando il tema esplode, cioè esplode appunto sulla stampa, esplode nella letteratura scientifica e assume una rilevanza che poi, per forza di cose, rimettendo insieme tutti i pezzi, lascia proprio intuire che rimanda ad altre paure, ad altre ansie sociali, per cui veramente il corpo del travestito e della travestita diventano in qualche modo l'emblema di paure, di cambiamento e di trasformazione che riguardano tutta la società. Cioè, a me non va adesso di attaccare proprio il discorso, non dire, pippone, però tutto l'ho fatto nel libro e credo appunto questo si veda da, spero di esserlo riuscita a restituire riportando la discussione che c'è sul rompere i confini tra maschile e femminile, che c'è nella letteratura scientifica, nella stampa popolare o nella sociologia, per esempio, di quegli anni, che è un altro pezzo importante. Vabbè, l'ultimo pezzo, qui siamo proprio nei bassi fondi a Roma. Roma, no? Sì, certo. Venite con noi in un circolo nei pressi di Via Merulana, tra Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Guglielmo Pepe. Il locale non è indecente, anzi è un grande stanzone, messo con una certa pretesa di lusso, e intorno a cui girano delle panche imbottite che funzionano da sofà. La folla che vi brulica però è di infimo ordine. Trovate là un elemento composto esclusivamente di parassiti dal ciuffo sulla fronte, i pantaloni a campana e la cravatta svolazzante, di donne perdute che ridono rumorosamente e si lanciano a piena gola i frizzi più mordenti e salaci. E là trovate qualche sottufficiale di cavalleria e parecchi giovinastri che si chiamano per soprannome Teresina, Giulietta, Mariuccia. Siamo arrivati al momento in cui si estraggono i premi di una lotteria e la folla fa ressa intorno al bancone, ove i premi commestibili sono esposti. Una bella una folla composta di donne che con, che con la voce avvinazzata, le guance rosse, gli occhi sfavillanti, tendono le mani, gridando fortemente. Gli uomini fanno coro, felice che finisce a... felice chi finisce a vincere vino e liquori. In un angolo un gruppo di giovinastri, tra i quali Teresina e Giulietta, assalgono un grosso panettone. Teresina reclama, data la sua qualità di giovanotto, di tagliare, si sbottona la giacca ed estrae il temperino. In quell'atto si vede trasparire dal gilet che egli è vestito con una camicia femminile di seta rossa fiammante, con pizzi di merletto bianco al collo. Nessuno ci fa caso e il giovane si chiude ancora la giacca. Questo è un pezzo di appunto un'inchiesta sociologica di fine 1898 che si chiama La malavita a Roma. Ed è un, diciamo, ce ne sono diverse in quegli anni fatte in diverse città d'Italia con la stessa metodologia, per cui ci sono questi primi sociologi che entrano nei bassi fondi cittadini, cercano di mimetizzarsi, non si sa bene quanto in realtà riuscendoci veramente, calcolando la loro provenienza sociale, e in qualche modo assistono a, a quelle che poi sono scene di vita quotidiana della quella che insomma sono ritenuti appunto i bassi fondi cittadini, la marginalità sociale e quant'altro. E diciamo, la cosa interessante che qui in qualche modo è sintetizzata e poi io ho ritrovato in tantissime altre fonti, soprattutto quelle processuali e penali del periodo, è questa scenetta che loro si trovano davanti, cioè di andare in un bar di infimo ordine e trovare accomunati e stretti in una relazione tra loro tutte le figure che in qualche modo osteggiano un po' il processo di civilizzazione di quei decenni, per cui abbiamo i travestiti, i marioli, i ladruncoli, quelli che vendono gli espedienti, diciamo quella variante che poi decenni dopo è stata chiamata marginalità sociale. E la cosa che loro appuntano in questi reportage che li sconvolge di più è il fatto che ci sia una sorta di accettazione sociale nei confronti per esempio dei travestiti. In questo caso sono uomini che portano, come avete visto, degli accessori o che si fanno chiamare con nomi femminili, che comunque giocano con le identità di genere, come diremmo oggi. E questo dato della tolleranza sociale in alcuni ambienti rispetto al travestitismo è una cosa su cui si appuntano loro, ma si appuntano anche altre fonti, come ho detto per esempio nelle indagini di polizia spesso si soffermano sul fatto che la prostituta aiuti il travestito, testimoni in suo favore, si rifiuti di sporgere querela, e in qualche modo quindi creando una rete di solidarietà, che abbiamo quella che appunto io citavo prima a proposito di soccorsa, e vale anche in questi ambienti. E il dato secondo me significativo è che di questi ambienti viene sottolineata la matrice di classe, ed è un altro discorso che a me è interessato molto, nel senso che qui il problema non è solo che ci sono forme di sostegno, ma è proprio che ci sono sacche di resistenza in qualche modo alla costruzione di quelli che sono decenni della costruzione di uno Stato nazionale. Ci sono sacche di resistenza dove, guarda caso, convergono delle figure che sono quelle poi considerate più ai margini, più lasciate fuori da questo processo. E in questa criminalizzazione poi del travestito o della travestita, questa costruzione di un'emergenza sociale rispetto al travestitismo, secondo me non ha giocato un ruolo secondario anche la componente di classe, per cui l'associare il disordine sessuale al disordine sociale è stata un'operazione che ha funzionato molto in quei decenni, e che quindi secondo me, soprattutto in anni come questi in cui si tende a non parlare di stratificazioni sociali, mi sembrava poi importante invece far emergere, non con un'operazione diciamo mia dietrologica, ma proprio come lasciando parlare le fonti e le retoriche di quegli anni. Cioè, io forse mi fermerei qua perché mi sembra di avervi inondato di parole e non... scusa, una precisazione. A parte essere un problema di, come dire, igiene mentale, il travestitismo si configurava come reato? Sì, teoricamente sì, poi praticamente appunto il mio problema di trovare delle fonti è stato pure che non era quello, cioè diciamo, benché esistesse soprattutto i regolamenti di polizia, la contra, diciamo, il divieto di mascherarsi in pubblico, che quindi poteva essere in qualche modo camuffare la propria identità. Sì, camuffare la propria identità comunque costituiva reato, e quindi io mi aspettavo, come è successo in altri paesi, di andare a vedere i registri penali e trovare lì i casi di travestitismo. Ecco, questo in Italia non è successo, nel senso che tutti i travestiti che io ho trovato processati li ho trovati per altri titoli di reato, come offesa al buon costume, e che diciamo non cambia molto rispetto al, cioè, o meglio cambia pure, nel senso che in qualche modo rimanda immediatamente alla sfera anche lì della sconvenienza sociale, del creare scandalo, del tradire la morale, molto di più di quanto lo possa fare un titolo di reato specifico come quello del camuffamento. Soprattutto complica il lavoro delle storiche e degli storici, perché il reato come offesa al buon costume, cioè sono 1 milione, e invece magari come caso, cioè sarebbero potuti essere molti di meno, per cui lì poi non, insomma, cioè, non è stato molto utilizzato, cioè io non l'ho mai trovato nei processi che ho trovato. Sono sempre altri titoli di reato, questi più, diciamo, che hanno immediatamente una risonanza sociale. Posso fare una domanda che può essere banale, banalissima, però ci sta tutta. Certo. E il tuo lavoro è importantissimo. È una pietra miliare sulla storia nostra, è datato, no? Parli loro alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. Una domanda banalissima è, da, e se è possibile avere una risposta, vuol dire sintetica, se no ne possiamo parlare fino a domani, da lì a oggi, che è successo? Cosa c'è? Poi lo dici nell'ultimo capitolo, questo un po' c'è. Allora, diciamo che immediatamente dopo, io mi fermo precedente con l'entrata in vigore delle misure di sicurezza, poi in realtà faccio anche un'incursione su quello, siamo negli anni 30, nuovo codice penale, vengono promulgate le misure di sicurezza, e io diciamo mi fermo lì perché lì si apre un nuovo capitolo, diciamo, mi fermo con una storia che in realtà arriva fino agli anni 40, che è proprio di un travestito che va a finire in manicomio criminale perché è travestito, cioè appunto si fa 2 anni in manicomio criminale solo per questo. Diciamo, quindi cosa cambia dopo? Forse andrebbe proprio visto decennio per decennio, perché subito dopo avviene questo, e poi sappiamo bene che negli anni 50 c'è tutta un'altra corrente anche scientifica, per cui cambia l'approccio, non che migliori, però diciamo entrano in ballo altre forme di, un tempo si sarebbe detto controllo sociale, normalizzazione, disciplinamento, per cui entra in gioco la chirurgia. E lì poi non so, veramente c'è un capitolo che secondo me è tutto da elaborare, da riflettere, cioè, cioè diciamo le terapie ormonali e le terapie chirurgiche o il ricorso alla chirurgia è una roba che sta dagli anni 50-40 in poi, attraversa tutti i decenni successivi, però sta al centro sia delle politiche di controllo e di normalizzazione, sia un qualcosa che viene richiesto e praticato dai soggetti, per cui secondo me cambia completamente lo scenario rispetto a prima, quando noi abbiamo una figura di travestito o di travestita, se vogliamo, semplice, cioè che non interviene sul proprio corpo, sulla modificazione del proprio corpo, e quindi c'ha, come dire, proprio un'altra dimensione secondo me rispetto ai decenni successivi. Fermo restando che poi per quanto riguarda l'incapacità della nostra società di uscire dalle categorie binarie, per cui maschile e femminile, secondo me non è cambiato molto, e lo abbiamo visto anche per tutta quella che è la questione degli intersessuali, per cui comunque questa ostinazione veramente culturale a reputare che ci siano solo il maschile e il femminile e qualsiasi forma di continuum o diciamo sconfinamento tra i due sia da correggere sia da normalizzare, cioè io penso che è bella che è resistita fino ad oggi e sia anche appunto raffinata poi nei modi in cui appunto viene, poi viene gestita. Io ho una domanda abbastanza intelligente. Allora, a prescindere dal fatto che si sta parlando di prima, non di adesso, quindi, cioè, tipo, era una cosa obbligata, cioè nel senso che per dire un gay mascolino, un gay femminile, cioè, femminile insomma, oppure una lesbica butch, cioè era quella la prima, cioè non avevi l'alternativa, no? Cioè nel senso andavi in giro della gonnellina oppure i travestiti. Secondo me no, detto appunto, cioè secondo me invece c'è stata un... ma come... La, diciamo, io parto da un assunto che secondo me le cose sono andate, vanno e sono andate sempre in maniera più complicata di come ce le hanno rappresentate, per cui non so, per esempio se io penso alla storia delle donne, a me mi hanno insegnato per decenni che le donne erano assolutamente incapaci di azione, incapaci di strategie, ma se vai a studiare veramente come nel piccolo guardando le fonti scopri una capacità di, non so, di azione, di negoziazione, di aggiramento delle regole molto più sofisticata di come ce l'hanno raccontata. Per quello che ho potuto vedere io non è, cioè non è vero che c'era questa dicotomia così tra o sei femminile o ti travesti, perché per esempio anche quindi il travestismo era una scelta, cioè in quanto travestitismo, punto. Sì, poi io diciamo ho parlato di travestitismo perché non potevo usare 5.000 parole, per cui ho scelto una categoria che poi un po' lo spiego, diciamo tiene insieme lo sconfinamento tra i generi. Non era, io non parlo solo di travestitismo, parlo anche appunto di donne che hanno giocato con gli accessori maschili, per, cioè, per esempio pensiamo alle prime femministe. Le prime femministe, alcune di loro, soprattutto quelle che si raccolgono intorno ai teatri, alla scena artistica dei primi del Novecento, non sono travestite, però sono donne che per segnalare la propria emancipazione, il proprio femminismo, magari mettono la bombetta, vestono i pantaloni e fumano. Beh, il sigaro. Quella è una scelta politica. Certo, è diverso. Certo. Certo, però è questo, cioè che non è per, cioè come l'uomo che nella taverna mette la camicetta sotto il gilet, lui sta segnalando qualcosa evidentemente, cioè non si sta travestendo, non sta facendo la mimesi, cioè sta giocando e manda cioè non sta facendo il camaleonte che fa finta di essere donna, cioè sta facendo uno che gioca con gli accessori, per esempio alcuni usano il rossetto o il carminio, però sono, che è un trucco del tempo, però sono vestiti da uomini. Quello è uno sconfinamento tra i generi, però non c'è proprio la dicotomia per cui faccio finta di non essere uomo. Non so se mi sono spiegata, cioè che poi da quello che io mi sembra di aver ricostruito c'è invece una vasta gamma di possibilità, e anche tra le donne, cioè io per esempio poi dopo che avevo chiuso il libro, per esempio nel libro io lavoro anche con delle foto che ho trovato degli anni 20, ma dopo che avevo pubblicato il libro ho trovato altre foto che a me mi hanno impressionato tantissimo, perché per esempio ho trovata una di una donna degli anni 30 pure questa appartenente ai ceti popolari, per cui non la donna che in qualche modo si fa fotografare nello studio così per divertimento, ma è un ritratto in montagna con il fucile, il fucile perché faceva la pastora e doveva difendere, diciamo, le sue bestie, ed erano anni particolari. Stava in montagna nelle Marche, era un'istituzione proprio nel paese dove stava, che Cagli viveva con la sua compagna in montagna, e lei era vestita da donna, però pure lei c'aveva il gilet, il sigaro e il fucile. Cioè, anche questa è una donna che in qualche modo gioca, no? Anche con i simboli della mascolinità, ed è una donna studente dei ceti popolari, cioè non puoi pensare solo che sono le femministe, perché magari sono le donne più borghesi, più intellettuali, più acculturate. Cioè, è come se poi a un certo punto si fosse creata come una specie di tradizione, proprio di possibilità, no? Per questo poi io pure prima insistevo sul fatto che mi sono occupata di donne e uomini dei ceti popolari, perché mi interessava pure vedere quanto questa cosa qui fosse penetrata nella società, cioè questa opzione, questo gioco, questa scelta, chiamiamola come ci pare, fosse penetrata nella società, non solo come, diciamo, una roba che poteva riguardare le elite o biografie eccezionali. Hai trovato casi di persone che abbiano proprio cambiato vita? Cioè, che abbracciando il travestitismo siano proprio, non li conoscevano e si siano, abbiano vissuto un'altra vita. Sì, tra l'altro, appunto, diciamo, moltissimi casi, sono tutti quelli che poi sono stati scoperti in punto di morte. E, diciamo, la cosa più significativa è che quasi sempre questi casi riescono perché a monte c'è un trasferimento, cioè una mobilità, per cui dall'Italia mi trasferisco, cioè non so, da Napoli mi trasferisco a Milano e mi presento come non so, Flavia tal de tali, in realtà sono un uomo travestito con mio marito. Ne ho trovati tantissimi, cioè alcuni sono poi diventati proprio, tra l'altro da poco in Francia hanno pubblicato un libro solo dedicato su uno di questi casi, dedicato a uno di questi casi, perché è particolarissimo, è la storia di un uomo che viene arruolato durante la prima guerra mondiale e non vuole combattere in alcun modo, per cui prima prova a amputarsi un dito, lo rimettono nei ranghi comunque, lui a un certo punto diserta, si traveste da donna e va a vivere in un paesino lontano dal suo luogo natio vestito da donna. Cioè, rimane vestito da donna per 20 anni, per cui, cioè, lì c'è qualcosa che non è solo sto disertando, perché poi nel frattempo c'è stata l'amnistia, e però vabbè, lui è tutta una storia complicata, perché a un certo punto poi viene scoperto, si decide di fare un film su di lui, cioè si crea proprio un caso enorme. Però anche lì a monte c'è, cioè, magari il travestimento è stato occasionale, però poi ha resistito per 20 anni. Oppure c'è appunto il segretario del console russo negli Stati Uniti che dopo 30 anni, questo aveva, si era sposato 3 volte con 3 donne, cioè, quando è morto sono andati a vestirlo, cerimonia pubblica, era una donna. Eppure questo è un caso molto documentato, cioè poi appunto ce ne sono diversissime anche in Italia. Però appunto pure lì in Italia noi abbiamo magari figure meno eccezionali, però la cameriera, il capo cameriere di tal ristorante che poi muore e si scopre che in verità era una donna, o non so, la guardiana di mucche vicino a Trieste, in verità era un uomo. Proprio come